Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Reggio Calabria, domenica 3 gennaio, ore 4:49. Un motorino si ferma in via Cimino, un uomo scende, per qualche istante manovra con qualcosa piegato sotto al manubrio, ha una giacca con delle righe quasi catarifrangenti e un casco integrale sul viso. Prende un pacco voluminoso e acceso sull'estremità, lo depone a terra sulla sinistra e poi di corsa risale sul motorino. A guidarlo forse una donna, a giudicare dalla punta delle scarpe che si intravede. Dopo pochi secondi una grande fiammata, pezzi bruciati di qualcosa volteggiano nell'aria. Lo schermo viene inondato da fiamme e luce. I fotogrammi dell'attentato alla Procura Generale di Reggio Calabria scorrono nelle pellicole delle telecamere di sorveglianza e riprendono l'ultima sfida allo Stato da parte dell''ndrangheta, che così alza il tiro. Se non fosse così già avremmo avuto due cadaveri. Un attentato del genere fatto fuori dagli schemi e dalle logiche mafiose sarebbe stato punito immediatamente dalla mafia. Un attentato così grave, che peraltro esula dal modo di agire abituale dell''ndrangheta. Questo fatto gravissimo vuole essere una risposta a una azione della magistratura reggina che ha ottenuto risultati che tutti definiscono straordinari. Salvatore Di Landro e Giuseppe Pignatone rappresentano il volto nuovo del Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria. Il primo, procuratore generale, si è insediato a fine novembre, l'altro è arrivato a capo della procura nel 2008 dopo una lunga esperienza a Palermo di lotta alla mafia. Ed è a loro che le cosche calabresi hanno voluto mandare un messaggio con la bomba fatta esplodere volutamente in un giorno, in un orario e con delle modalità tali da non fare troppi danni, ma mandare un preciso avvertimento. Un messaggio firmato dalle cosche tutte insieme, ne è convinto il principale bersaglio di quel tritolo, il procuratore generale Salvatore Di Landro. Purtroppo sì, diceva oggi un altro esponente delle forze di polizia, della legge, diceva: ma se non fosse così già avremmo avuto due cadaveri. Cioè, un attentato del genere fatto in modo impulsivo, fuori dagli schemi e dalle logiche mafiose, sarebbe stato punito immediatamente dalla mafia. Cioè, voglio dire, la criminalità organizzata ha delle regole rigide, nessuno si sarebbe mai permesso di fare un atto del genere senza il placet delle altre cosche, quantomeno regine, perché il segnale è molto, che hanno voluto mandare, è molto forte, è molto determinato, molto specifico, molto puntuale, perché sono venuti a cercarci, non hanno messo la bomba di fronte al Palazzo di Giustizia, il glorioso antico Palazzo di Giustizia degli anni 20-30, l'hanno messo alla Procura Generale, che è peraltro, diciamo, strutturalmente in un edificio della Curia Arcivescovile, quindi sono dovuti venire proprio volutamente, specificatamente da noi a fare l'attentato. È chiaro che una cosa del genere in pieno centro non può essere fatta da chi ha subito un torto e decide così di vendicarsi dal singolo, e poi le modalità mafiose denotano che c'era una struttura che ha organizzato il tutto. Ecco, se la matrice mafiosa sembra fuori di dubbio, e lo è stato da subito, ecco, poco dopo, diciamo, è stato subito a voi chiaro che dietro quell'ordigno ci sia l''ndrangheta, sembra essere un elemento nuovo ipotizzare una decisione condivisa quantomeno dalle famiglie regine, lei diceva. Quindi è giusto casomai ipotizzare anche una chiamiamola riunione operativa per poter decidere e mettere a punto un attentato che anche nelle modalità, il giorno festivo, certo, l'orario, certo, è stato studiato? È stato di fatto che certamente ci sarà stata un summit, qualcuno che ha consentito di mandare, che venisse questo messaggio, per tutta una serie di ragioni. Ormai in appello non si può fare più il patteggiamento, quindi a trovare un ambiente serio, fermo, evidentemente danneggia moltissimo le cosche mafiose, che prima pensavano all'appello come una fase del giudizio, diciamo, più mite, se si può usare questa espressione. Io ritengo che invece, seppure con la massima serenità, con il massimo rispetto dei diritti di ogni cittadino, ivi compreso il cittadino mafioso, la risposta dello Stato a questo fenomeno deve essere forte, ferma, decisa, seria, costante, e ci muoviamo su terreni che non potevano consentire soluzioni compromissorie o così, che potessero esaminare il fenomeno con una certa, appunto, indulgenza. Certo, e questo attiene a quel, diciamo, vento nuovo, chiamiamolo così, che in qualche modo la vostra azione della procura generale negli ultimi tempi ha portato nella lotta all'andrangheta. Su questo ci arriveremo tra un minuto, ma tornando ancora per un attimo all'ipotesi di un summit a cui lei faceva riferimento poco fa, questo vorrebbe dire che quantomeno la ideazione di questo attentato debba risalire ad alcuni mesi fa. Sufficiente che chi ha deciso, che il promotore di questa idea, l'abbia sentito anche 5-6 capi clan, si fa capire che bisogna mandare un messaggio a chi eventualmente ritiene di dover fare giustizia serenamente ma con serietà. Certamente il messaggio alla Procura Generale viene dato da un fatto recente, perché tra l'altro mi sono iniziato da poco. Ma a questo punto, secondo lei, cioè il messaggio è il messaggio del dire questo è il primo avvertimento? Non so se si vuol dire questo è il primo e poi c'è stato un secondo, eccetera. E ripeto, il problema mi lascia sereno. E sicuramente si è voluto dire stare attento, perché qua le cose non vanno per il verso giusto. Ecco, questa risposta seria e forte, seppur serena, che la Procura Generale ha dato negli ultimi tempi, evidentemente non è piaciuta. E siccome mi sono insediato da un mese e mezzo, è evidente che qualcosa nel mio comportamento ha fatto loro intendere che non avrebbero più trovato un terreno morbido, un'aspettativa di, non dico di indulgenza, ma di comprensione, come dire, sotto il profilo della pena, delle valutazioni in tema di responsabilità. Questo ha fatto scattare questa risposta. C'è questa stata risposta, anche una, questo segnale, questa risposta segnale, renditi conto di quello che fai, di quello che devi fare, insomma. Una minaccia esplicita, tanto è vero che a lei è stata in questo momento anche rafforzata la scorta. Certo. Ecco, procuratore, lei si è anche direttamente interessato alle gestioni che sono affidate ai suoi sostituti, quello che compete alla Procura Generale, cioè i processi d'appello e poi la questione delle confische. Ma quello che ha in questo momento un po' colpito di questo attentato a Reggio è quasi parsa una sorta di sicilianizzazione, mi passi il termine, della malavita calabrese. Fino ad ora un attentato così da parte dell'andrangheta non si ricorda. Sicuramente la sua analisi è molto vicina al vero. Evidentemente da un lato si sentono molto più forti e quindi ritengono di poter osare, dall'altro al tempo stesso si accorgono che gli strumenti che noi andiamo ad operare vanno veramente a incidere il tessuto mafioso e quindi bisogna tentare di rispondere. Certo, però fino adesso, vuol dire, l'andrangheta c'è sempre stata e le modalità, diciamo, sue di operare e anche di mandare messaggi erano meno eclatanti. In questo momento, ora, con questo attentato che alza il tiro, si porta addosso anche la reazione più forte e la tensione più forte dello Stato, che in genere viene considerato come un effetto non gradito alle malavite organizzate, che vogliono nel silenzio del quieto vivere, diciamo, continuare ad operare. Sì. Proprio per questa affinità con i metodi mafiosi siciliani, un messaggio mandato anche ai suoi colleghi che provenivano da Palermo? La mafia colpisce dove e come vuole, quindi se ha scelto una branca precisa, isolata peraltro, certamente lo ha fatto la gian veduta, perché altrimenti avrebbe messo nel grande spiazzale antistante gli uffici del tribunale, della procura, eccetera eccetera. Se invece ha scelto un posto così isolato, specifico, evidentemente ha voluto certamente purtroppo colpire noi. Detto questo, è ovvio che l'obiettivo è tutta la giustizia, colpiscene uno per educarne 100. Lei ha anche origini calabresi, una città dove secondo lei questo silenzio e questa calma apparente degli ultimi momenti è stata favorita anche da ampie zone grigie? Per quanto riguarda i magistrati, lo escludo categoricamente, lo stesso posso dire per il personale, cioè non mi risulta mai che alcun nostro collaboratore sia stato in odore di mafia. Poi ogni uomo è peccatore e ci tratterebbe, perché non ho elementi per dire che in quell'ufficio o in quell'altro alberga qualche mafioso. 2 anni fa, poco dopo l'insediamento del nuovo procuratore Pignatone, fu trovata una microspia nell'ufficio del dottor Gratteri, con una potenzialità di ascolto che era limitata a quella degli uffici giudiziari. È chiaro che la mela marcia ci può essere in qualche ufficio, però se esiste questa è la mela marcia che lavora nell'ombra, isolata, individuale, che non assume le vesti di un problema che riguarda l'apparato dello Stato sotto un profilo della giustizia. Per quanto riguarda gli altri settori della vita pubblica regina, ovviamente io deve molto ben precise. È certamente possibile che anche nei vari settori della vita pubblica ci possa essere qualche isolato inquinamento, ma ritengo che in massima l'apparato pubblico della città sia sostanzialmente sano. I settori in cui si muove la criminalità sono altri, sono quelli dell'economia, è lì che come una metastasi la criminalità organizzata si espande cercando di impadronirsi delle leve economiche di potere della città. Quali sono secondo lei in questo momento i settori maggiormente sotto la lente? Lei vede sorgere grandi magazzini improvvisamente, investimenti di capitali enormi, allora viene spontaneo domandarsi se non siano attività queste connesse all'eventuale riciclaggio di denaro di provenienza illecita. In questo mese e mezzo dal suo insediamento, qual è stata questa novità, diciamo, introdotta dal suo arrivo, e poi quali sono stati i casi che da qui adesso in futuro andrete ad affrontare? Si è parlato molto dell'appello per il processo Fortugno, ma ci sono state anche confische importanti per le cosche calabresi, non solo in Calabria ma al di fuori, ci sono state inchieste anche sul porto di Gioia Tauro. Ecco, se lei dovesse allora, in qualche tutto modo... quello che le ha detto è esatto, il processo Fortugno, le confische, Gioia Tauro, queste sono tutte cose nelle quali lei ha messo il dito nella piaga, sono settori purulenti che vengono all'analisi e all'esame anche della Procura Generale, prima o dopo, perché tutto passa attraverso il grado d'appello, quindi sapere che in appello la giustizia è seria come lo è in primo grado è qualcosa che impensierisce e disturba moltissimo la criminalità. Veniamo alla situazione dei vostri uffici giudiziari. Spesso si parla di uffici che non sono sufficientemente, diciamo, attrezzati per l'ampio lavoro. A Reggio com'è la situazione? Sono uffici che sono abbastanza sguarniti, ci mancano magistrati, questa è la verità. E poi naturalmente vedere che l'ambiente è un ambiente sano, che ti sostiene, con forze di polizia adeguate e così via. E 6 nuovi magistrati, 121 agenti saranno presto inviati nella punta dello Stivale, che ospiterà anche la sede dell'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati. È questa la prima risposta dello Stato dopo un vertice straordinario a Reggio. Storielle. Storiacce. L'Ndrangheta vuole capire fin dove lo Stato vuole spingersi. È questa la convinzione del procuratore capo di Reggio Calabria. Giuseppe Pignatone ha varcato lo stretto di Messina 2 anni fa, dopo anni di impegno in prima fila nella lotta a Cosa Nostra a Palermo. E il codice mafioso ormai lo conosce bene. Per questo, ora, in questo attentato delle cosche calabresi, da tutti considerato anomalo, legge l'inizio di un tentativo di trattativa dei clan dell'Ndrangheta. Uno dei punti centrali dell'analisi e delle indagini è di cercare di capire quale possa essere stato il momento scatenante, la decisione di un attentato così grave che peraltro esula dal modo di agire abituale dell''ndrangheta. Questo fatto gravissimo vuole essere una risposta a una azione della magistratura reggina che ha ottenuto risultati che tutti definiscono straordinari. Io mi limito a indicare alcune cifre, sottolineando che è un lavoro che coinvolge tutti gli uffici giudiziari di Reggio, naturalmente. Certo. Sono stati sequestrati circa 800 milioni di euro di beni, sottratti quindi alle cosche di 'Ndrangheta. Sono stati sequestrati in pochi mesi circa 700-800 kg di cocaina al porto di Gioia Tauro, ma anche in mare all'arco della Sardegna, ma sempre di pertinenza, per così dire, delle cosche di 'Ndrangheta. Sono stati catturati in un anno 49 latitanti, di cui 11 inseriti nei primi 30, quindi con un'azione forte anche di riconquista del territorio, perché la presenza di un latitante è un momento centrale per la 'Ndrangheta di controllo del suo territorio. E poi sono stati fatti molti processi. In questo quadro generale di un'azione decisa dello Stato nei confronti della 'Ndrangheta si inserisce un messaggio particolare alla Procura Generale a poche settimane dall'insediamento del nuovo Procuratore Generale, che ha dato segnali chiarissimi per una presenza ancora più efficace, ancora più incisiva del suo ufficio nel grado di appello che è quello di sua competenza. Questo come quadro generale. Poi la singola indagine, il singolo processo, vedremo di capire più avanti. Ecco, procuratore, quello che ha colpito subito, come lei già notava, questa azione inusuale da parte dell''ndrangheta, un attentato e un tipo, diciamo, di atto intimidatorio che si era più abituati a vedere nelle vicende siciliane. Lei proviene dalla procura di Palermo, per cui insomma della condotta di Cosa Nostra la conosce molto bene, mentre per l''ndrangheta questo tipo di attentati è sembrato una novità. Che cosa vuol dire? Perché questo tipo di cambiamento, secondo lei? Ma guardi, l''ndrangheta da molti anni, dalla fine della guerra di mafia, l''ndrangheta per l'appunto, che risale al 91, ha scelto una strategia, secondo me, molto intelligente, di apparente basso profilo, evitando i gesti eclatanti nei confronti dei rappresentanti delle istituzioni, e curando moltissimo invece gli affari, conquistando ricchezze incredibili e col traffico internazionale di stupefacenti, ma non solo, ed espandendosi al di fuori della Calabria, nelle regioni del centro e nord Italia, come dimostrano le indagini, i sequestri eseguiti, le operazioni delle altre procure del nord Italia e anche all'estero. Naturalmente, quando è stato ritenuto necessario, l''ndrangheta ha fatto gesti di violenza estrema sia in Calabria, circa un anno fa è saltato una persona con una autobomba nell'aprile del 2008 ed era chiaramente un delitto di 'ndrangheta, sia anche nel contesto istituzionale, come l'omicidio del vicepresidente del Consiglio regionale, l'onorevole Fortugno, peraltro fatto durante le primarie all'epoca della coalizione dell'Ulivo, quindi anche in un momento significativo dal punto di vista politico, oppure con fatti eclatanti come la strage di Duisburg, che ha attirato poi l'attenzione di tutta Europa sulle cosche calabresi. E sono evidentemente calcoli del momento, in una scelta, in una strategia generale di un apparente basso profilo, evidentemente le cosche decidono secondo il momento, secondo le esigenze. Cosa abbia scatenato in questo momento questa decisione non lo sappiamo ancora, spero che le indagini ci possano dare una risposta. Sicuramente i fatti che lei ha ricordato sono di una gravità inaudita, ma questo tipo di attentato, anche se fortunatamente senza conseguenze sulle persone, abbia una valenza simbolica ancora più forte. Certo, ma guardi, andando a ritroso nel tempo, vi sono sentenze definitive per cui esponenti di clan calabresi sono stati condannati a suo tempo per l'omicidio del procuratore di Torino, il dottore Caccia. Non è una cosa estranea alla politica dell''ndrangheta anche il delitto eclatante. È una scelta strategica, così come è stata una scelta strategica fare un atto che è chiaramente intimidatorio, ma che non voleva ragionevolmente colpire le persone, dato le modalità, dato l'orario notturno, eccetera. Quello che invece io credo di volere e dovere dire è che da parte di tutti i colleghi degli uffici giudiziari di Reggio c'è da un lato la consapevolezza e la gravità della situazione, dall'altro la volontà di continuare a lavorare come prima e più di prima. Lei ha ricordato i risultati eccellenti che avete ottenuto in questi 2 anni dal suo insediamento. C'è secondo lei un nervo più scoperto di altri rispetto anche alle varie cosche di cui vi siete andati ad occupare che possa aver innescato questo meccanismo? Ad esempio, avete messo le mani anche sulla droga che arriva nel porto di Gioia Tauro, oltre a ricordare anche agli importanti confische e operazioni che hanno portato ad intaccare anche i beni al di fuori della Calabria. Saranno le indagini a dirci, io spero, qual è stata la ragione ultima che ha spinto qualcuno a decidere a mettere in atto questo gravissimo fatto. Io credo che contro le associazioni criminali, la mafia siciliana come la 'ndrangheta calabrese, quello che conta è da un lato la completezza dell'azione giudiziaria. Sotto questo profilo ci vogliono la cattura dei latitanti, il sequestro dei beni, il sequestro della cocaina e così via. Dall'altro ci vuole la convinzione della società civile di combattere con i suoi strumenti, cioè con una vita ordinata, civile e democratica, facendo ognuno il proprio dovere, il fenomeno mafioso, che purtroppo in Sicilia e ancora più in Calabria pervade tutta la vita sociale. E a proposito proprio di società civile, abbiamo visto che lei ha visto anche come in Sicilia alla fine c'è stato qualcosa che si è mosso. In Calabria c'è anche un'ampia zona grigia che ha favorito in questi anni il silenzio e anche gli affari dell'Andrangheta. A questo punto, secondo lei, anche considerando quello che è successo, è da qui che è necessario anche avere un contributo per portare avanti la vostra azione? La criminalità organizzata di tipo mafioso non si sconfigge solo con le indagini e i processi. Le indagini e i processi sono necessari ma non sufficienti. Ci deve essere un'azione di tutte le altre componenti, i partiti, la Chiesa, i sindacati, i giornali. La Calabria soffre di un grandissimo isolamento, anche gli organi di informazione, mi spiace dirlo, se ne occupano rarissimamente, solo quando c'è un fatto eclatante come questo o magari un episodio di mala sanità che può commuovere l'opinione pubblica. Ci vuole un'azione continua, quotidiana, giorno per giorno. Non è un'emergenza la 'ndrangheta, è purtroppo una realtà consolidata da decenni e quindi ci vuole un'azione lunga, feticosa, paziente per contrastarla. E lei sta sentendo che tipo di risposta da parte della città? Nella società calabrese, che è una società chiusa, soffre, ripeto, di un forte isolamento che comincia proprio dall'isolamento fisico. Diciamo, tutti sanno le condizioni della Salerno Reggio Calabria, la difficoltà di percorrere 400 km di autostrada. Però io credo che ci siano dei segnali nella città di Reggio, più in generale nella società calabrese, di attenzione, di presa di coscienza. Naturalmente ci vuole tempo, ci vuole consapevolezza, ci vuole soprattutto un'azione, ripeto, corale. Anche in Sicilia i fenomeni importanti, i più famosi di Addio Pizzo, di Confindustria Sicilia, non sono sputati all'oggi al domani. Se noi pensiamo che il maxi processo di Falcone è del 1984, sono passati più di 20 anni. 25 anni abbondanti. La città in qualche modo sta cercando anche di avvicinarsi? Ci sono dei segnali promettenti e incoraggianti. Il suo insediamento a Reggio però era stato accolto anche con un microspia nell'ufficio di un suo collaboratore, del dottor Gratteri. Sono state fatte delle indagini che non credo abbiano avuto esito positivo, ma insomma, questo rientra, sia pure in modo fuori dal normale, nel contrasto e nelle vicende giudiziarie. Noi abbiamo continuato a lavorare nonostante questo e continueremo ancora.